forse da una parte ne sono diciamo, per assurdo un po' contento, nel senso i nodi vengono al pettine in una maniera talmente evidente che mi auguro che ci sia almeno una parte del mondo che inizi a chiedersi se forse non esiste un'altra strategia oltre a quella continuamente reiterata della sicurezza, della protezione, del contrasto, no? E dall'altra certamente sono preoccupato perché questa strategia continua ad essere alimentata, finanziata e ad avere tanti sostenitori. Però insomma alterno momenti di profondo pessimismo rispetto ai destini dell'umanità e momenti in cui mi dico beh, ma ci sarà qualcuno che si accorge che tutto ciò sta succedendo, perché l'unica cosa che fin qua davvero è stata fatta è stata quella di contrastare e non di dialogare con le dinamiche inevitabili delle migrazioni. Prendo spunto dalla prima cosa che hai detto, perché stando ai sondaggi che sono comunque sì uno strumento un po' così, ma anche guardando un po' quello che sono i social network o comunque la sensazione che si ha a livello dell'opinione pubblica è che per esempio in Italia le sparate del ministro Salvini facciano presa e cresca il suo consenso. Sì, non c'è dubbio, è inevitabile nel momento appunto in cui non esiste un'altra idea. Cioè, la cosa che a me preoccupa molto è che chi non è Salvini o chi non è Trump o chi non è Orban non sviluppa una strategia diversa, e in realtà Salvini, Trump e Orban stanno semplicemente traendo i risultati, prendendo i vantaggi di un'assenza di alternativa. Ora questa alternativa andrebbe più forse costruita che detta, nel senso bisognerebbe capire come costruire vie regolari di migrazione, gestione delle migrazioni in modo tale da diffondere il flusso e non riprodurre tensione, ed è molto difficile rivendicarla in questo momento in uno spazio comunicativo completamente drogato dal manicheismo di li vuoi o non li vuoi, li caccio o non li caccio, no? Cioè è evidente che rispetto a questo tipo di narrazione e di spazio comunicativo dire io voglio i rifugiati, bah, insomma è evidente che sei perdente, no? Però si possono fare delle cose nel frattempo per impedire che quella strada sia l'unica, no? E io mi auguro che ci sia una parte del potere che capisce che se non iniziano a gestire in maniera diversa questa storia consegnano le chiavi del potere alla parte peggiore della nostra civiltà. È troppo tardi? Forse in parte è troppo tardi, forse c'è ancora spazio per avere un colpo di coda. Non vedo altra luce se non il buio totale del farci consegnare ad una classe dirigente che continuerà a produrre solo odio fino ai suoi massimi estremi. Però spero che questo non sia interesse di tutti, ma solo di alcuni. Nel tuo film L'ordine delle cose, tu nei titoli hai scritto che i personaggi sono di fantasia. Ti chiedo molto direttamente se era, come dire, una forma di cautela legale o effettivamente sei stato profetico. Io ho scritto che sono di fantasia perché sono di fantasia, ma che il contesto storico-sociale è assolutamente realistico. Mi hanno chiesto in tanti se ho avuto in qualche modo delle veggenze. Semplicemente no, ho studiato le dinamiche in corso e ho capito studiandole nel tempo che quella strada era una strada che si sarebbe ripetuta, perché attenzione, quello che ha fatto Minniti l'anno scorso è la stessa cosa che vuole fare più serenamente, nel senso senza problemi di rivendicarlo, Salvini quest'anno, e che hanno fatto Pisanu nel 2005, no? Cioè la strategia dell'esternalizzazione, cioè io chiedo a delle persone dall'altra parte della frontiera di fare il lavoro sporco che io non posso fare e cerco di trarne i vantaggi dicendo che ho ridotto il numero di sbarchi, e questa è una strategia che continua a non risolvere niente, ma continua a mantenere il problema presente e aiuta la radicalizzazione dello scontro su questo tema e la radicalizzazione della deriva più xenofoba su questo tema. E per questo dico, mi auguro che qualcuno si accorga che questa strategia sta producendo questo male. Sono curioso di vedere cosa succede al Consiglio d'Europa fra qualche giorno. Gli indicatori non sono molto positivi, però c'è un elemento su cui spero si concentrino le attenzioni di chi vuole evitare la deriva più nera, cioè il fatto che il Parlamento europeo ha approvato una proposta di cambiamento del regolamento di Dublino che apre un'altra direzione, cioè una direzione gestione più umana e solidale del fenomeno migratorio, che appunto, ripeto, è stata approvata in maggioranza dal Parlamento. Ora il Consiglio d'Europa potrebbe prendere quella proposta di cambiamento approvata dal Parlamento per aprire una nuova stagione. Se non lo farà, rimarremo in questa stagione, e in questa stagione chi ne trae vantaggi è evidente. In questa stagione che ruolo ha la società civile? Allora, la società civile è tutto e niente, nel senso che la società civile è composta da tante anime diverse. E se per società civile intendi quella parte di società che è attiva quotidianamente con pratiche di accoglienza, mediazione interculturale, cooperazione, eccetera, questa parte di società ha un ruolo che fin qua è stato veramente fondamentale per costruire nel quotidiano un argine alla facile decadenza verso territori di odio, di paura. Quanto riesca a continuare ad essere un argine dipende da quanto si ha voglia di veramente sostenerne l'attività, l'azione e la presenza. Questa è un'altra direzione rispetto a cui le istituzioni europee hanno avuto e hanno un ruolo anche positivo, ma che rischia di essere ridotto nel momento in cui la maggioranza dei finanziamenti andassero in una direzione invece di aumento delle politiche securitarie. Penso che sia fondamentale invece sostenere l'attività di tutte queste realtà che hanno prodotto una pratica di civiltà capace di salvarci dalla facile presa del discorso dell'odio, che nel momento in cui diventa anche attuazione di pratiche negative quotidiane diventa molto pericolosa, cioè nel momento in cui succedono cose come quelle che stanno iniziando a succedere, di gente che utilizza il clima politico per fare pratiche di odio, beh, questo è un passo che sappiamo bene quanto è pericoloso nella storia d'Europa e non solo. È fondamentale anche tutto quello che la società civile, intesa come parti di cittadinanza attiva, hanno fatto in questi anni, tema di informazione, racconto e analisi di quanto sta succedendo. È pazzesco come per tanti anni chi si occupava di questo tema sia stato considerato in qualche modo marginale, cioè io ricordo di libri, dossier, documenti, documentari prodotti tra il 2006 e il 2014 di livello altissimo e che permettevano, costituivano elementi fondamentali per capire in che direzione andare, che venivano considerati poco interessanti perché si occupavano di un tema non centrale. Era così che ci veniva detto, perché è stato detto anche a me, a chi vuoi che interessi, sì, poveretti, gli immigrati, ma insomma sono una cosa marginale a parte, no? Come se invece questa cosa non avesse a che fare con la trasformazione della nostra società. Quindi un altro consiglio che mi sentirei di dare a chi gestisce la politica pubblica ai vari livelli è di utilizzare, ascoltare e valorizzare il racconto di questa cittadinanza attiva che da anni sa raccontare e aveva intuito delle cose, e mi auguro che anche questo ci sia spazio anche per questo.